Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. I would like, if I may, to take you on a strange journey. Non erano ancora passati The Organ all'interno di Eclettica, ma chissà perché. Comunque con Brother abbiamo parzialmente rimediato quest'oggi. Giulio Caperdoni in vostra compagnia anche per quanto riguarda questa seconda parte della 28ª settimana di Eclettica, tutte le sere tranne il lunedì alle ore 22, quattro parti di 30 minuti ciascuno, dal martedì al venerdì e poi il sabato e la domenica sommate in trasmissione da un'ora ciascuna. C'è comunque a disposizione anche il podcasting, qualunque altra cosa abbiate in mente di fare con Eclettica, anche con le sue pillole che da questa settimana si sono ridotte ad una dose giornaliera, quella da prendere alle 20:55. Vi ricordo i biglietti di Isobel Campbell per il 28 e il 29 a Bologna e a Rimini. Scrivete a giulio@radiorockfm.com. A quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e attraversare la strada per diventare come matte. E tutto era così bello, specialmente di notte, che tornando stanche morte speravano ancora che qualcosa succedesse, che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino e magari venisse giorno all'improvviso e tutta la gente uscisse in strada e si potesse continuare a camminare fino ai prati e fin dietro le colline. Siete sane, siete giovani, dicevano, siete ragazze, non avete pensieri, si capisce. Eppure una di loro, quella Tina che era uscita zoppa dall'ospedale e in casa non aveva da mangiare, anche lei rideva per niente e una sera, trottando dietro gli altri, si era fermata e si era messa a piangere, perché dormire era una stupidaggine e rubava tempo all'allegria. Questo era l'incipit della bella estate di Cesare Pavese. Pull the strings, baby, pull the strings. you to the edge, baby, but I'd rather feel you strain. Eclectica. Let me speak to J. Edgar Hoover or the CIA. Tell them I'm a businessman. Feel me? Pay attention. This is the lesson, complete with the plans and actions. The combating of your weapons of mass distraction. The spinning rims, all the iced out gems. The minds in which the Africans lost their limbs. Our age is rapid, don't be dumb to what's happening. With George W. Bush in his corporate American cabinet. The wage war, the sacrificing of the poor. The strategic position on a global chessboard. They don't believe you, we'll pitch the axis of evil. To gain the support of all the apathetic people. The wealthy royals, with the war comes the spoils. From Afghanistan to Iraq, the drugs and oil. The poppy seeds, the loose shit commodities. Whoever controls the two, influence economies. He'll lose his job if your DJ ever played this and get dropped off his label if your MC dare to say this. It's a whole sick country and it's whole sick war machine. Terrorists have crisis to bring about change through fear and contrived crisis. Terror for hire, unfairly elected liars, freelance extremists and governments who conspire. It's pitiful, this rhyme ain't political. It's commercially deflated, they're highly critical. A violation of all the Patriots' acts. To violate the free speech, I have a problem with that. George and the Bush, from which he came, is rotten. Started out bust a warrior with Salam bin Laden. The late elder brother of Osama bin Laden. The two wealthy sons of Mohammed bin Laden. Wealthy Saudi, entrepreneur extraordinaire. Now who dropped the put options on United Air? He'll lose his job if your DJ ever played it. Say get dropped off his label if your MC dare to say this. I will not. Extremist, I'm an introvert, the profile of a genius genius. Bush saw the towers fall before the planes went in them. Bush saw his father's fall, finance and hit the system. I'm dead walking, I'm destined for the coffin. Judas got a Jesus piece to stop me from talking. I ain't afraid, I embrace this war. It ain't living till you know what it is that you'll die for. Don't say this, don't say that, change your lyrics. Everybody's a critic, it's getting kinda hectic. My rhymes are all finished, so they shall remain. My writing exciting and never mundane. In actuality, my personality keeps my mentality based on real life situations, not speculations, but verbal illustrations of how I feel. We sacrificed Aztec style as food for war, right here at home. Questi sono i suoni dell'Anticon Records, ormai un suono hip hop che possiamo sicuramente prendere come riferimento per quella etichetta. L'artista in questione all'anagrafe è Jeffrey Logan, però si fa conoscere con lo pseudonimo di Gel, in passato è stato membro dei Subtle, ve le ricorderete, passati in Eclettica, e ha anche partecipato al progetto, assieme ad alcuni No Twist, oltre che artisti americani lui compreso, di nome 13 and God. Anche questo sicuramente ricordate nelle playlist di Eclettica. A proposito di playlist di Eclettica, vi ricordo che per averle, per riceverle nella vostra casella di posta, bisogna essere membri della lista nera. Per farlo scrivete un mail a giulio@radiorockfm.com e dichiarate il vostro desiderio di esserne parte. A proposito di playlist, un veloce riassunto di quanto vi siete già ascoltati in Eclettica questa sera. Di Organ hanno aperto con Brother, poi Architecture in Helsinki, poi Sandy Dillon, lo stesso brano che era stato anche pillola di Eclettica quest'oggi, Pull the Strings, proprio il brano che dà il titolo al suo album, poi questa WMD, il brano di Gel estratto dal suo disco dal titolo Soft Money. Ed ora proseguiamo con un'altra relativa novità, in quanto ci ascoltiamo il nuovo dei Flaming Lips, già passato la settimana scorsa in termini di Eclettica tempo, cioè due settimane fa. Si tratta di The Wand. Ciao Giulio, è mercoledì, sto ascoltando il podcast di Eclettica. Il tutto è un po' strano, intanto è giorno e c'è luce. E poi, dopo andrò al lavoro. Una lunga giornata ancora mi attende. Adesso stai passando il pezzo dei Mazarin. Ripenso al compito a casa. Devo dire che sono molto fortunata. Per ora non mi è ancora capitato di andare ad un concerto e tornare a casa pensando, beh, forse sarebbe stato meglio andare al cinema. Il che non significa che ho assistito solo a performance mirabolanti, ma magari ero già partita con delle basse aspettative, tipo l'anno scorso con l'Interpol. Non mi aspettavo sto granché, infatti. Quindi, questo compito non posso svolgerlo, però recupero quello della colonna sonora. Estate 2001. Mogwai. Io purtroppo ero immersa in un dolore assolutamente enorme, lontana dall'Italia, in Finlandia. Take me somewhere nice. L'unico che ce l'ha fatta a starmi vicina è stato il mio amico Jussi. Quella musica si è fusa insieme con il suo prezioso abbraccio e con le corse in bicicletta giù per le piste da sci deserte. Minuscole stelle. What would you do if you saw space ships over Glasgow? Would you fear them? Non avrei fatto nulla, non avevo più paura di niente. Forse avrei sperato che mi portassero via, ma intanto le note mi trascinavano in giro, lungo i fiumi, nei bagni sotto il pallido sole di mezzanotte. Jussi, tranquillo, vicino, con il suo sicuro calore. Tutto cristallizzato lì, traccia 2, 6 minuti, 57 secondi. Ah, che magia. Eclettica, fine della seconda parte.